la parola Dio non la conosciamo, entrava sempre con 600 watt da Provincetta. Asco, come ti sembra questa radio? Perfetta, perché è fatta buona MP4. V5, bella, oh no, questo è un Galaxy Saturn, ho fatto delle modifiche e ho chiuso oggi, lo sto provando e sembra che vada bene, no? Perfetta, questo è, quel microfono sta contando parecchio, lasciano così che è ottimo. Se non così invece è normale, e così è maggiorato, ha fatto un po' di giochettini piccolini, ha aggiunto canali, lo sto provando, adesso me stanno andando a letto e sono entrato giusto a salutarvi che vi ho sentito su questo canale sopra il 40. Buonanotte a tutti, faccio un giro così mi dà un controllino, non so nemmeno chi c'è, vi ho sentito poco fa, ero sul 10 minuti e sono venuto qua a rompere le scatole. Avanti Baracco. Modifica di un quel tipo di apparecchi, anche compreso quello che dicevo io, dovete fare se dovete fare un ponte dell'integrato o PLL, mantenere all'autopilino e vada sul 28. Però sai che mi è capitato lì quella volta di quell'apparecchio, è staccato con la modifica del numero, scritta. Quindi ci dovrebbe essere un tipo di quell'apparecchio lì che ha lo stesso integrato che monta il 2009 per il 2006, quello che è anche il Saturnecco, che è fatto un ponticello dall'antirino dell'integrato all'altro, dalle 28 ai 30. Solo che non ho, io con la volta di ho staccato questo ponticello perché non riuscivo a capire, come ho detto quell'apparecchio guarda lì, ho detto fate le 23:30 invece questo qui sono solamente 7. Una volta che poi ho staccato questo ponticello io, in laboratorio è sceso solo la 27, faceva tutta la 27 complessa. Solo che non so che gli abbia applicato, capito, il discorso è questo, se c'è, dovessi trovare su internet per avere quel tipo di modifica lì. No, già qui ho fatto due scatti, scendo ancora sotto le altre due bande, tutto di rio, di ponti, una serie di lavoretti e scendo le altre due bande sotto volendo, giusto per giocare l'ho fatto, ma va bene così, non so nemmeno perché l'ho fatto, comunque, ti rilancio, ti fai rilanciare un attimino agli altri, li saluto, mi sto andando. Volevo chiederti, tu mi avevi detto, il Galaxy, quello che sto usando io adesso, quello base, giusto? Sì, affermativo, Galaxy Saturn da base, 5 stelle, c'è blu. Esatto, lo sto usando anch'io, io sto usando l'MP4. Questa modulazione la mia, come ti sembra? Io ti sento con questo che sto usando adesso io, un bel amplificato, un bel. Lo so perché ci ho lavorato dentro e se non esce così il Galaxy Saturn. Infatti io mi guarda. Antone, fai il paragone tra questa radio che sto utilizzando io e quella che sto utilizzando Baracuda. La sua è molto più superiore, la verità, come radio, molto molto più alta, c'è niente da dire, quindi, non so se hai fatto qualche modifica sulla scheda eco o cosa, la verità, comunque esce bene. Allora, prima di tutto questo sinti reverbero dell'eco è stato modificato, perché se senti quello di questa radio era bruttissimo e non mi piaceva, l'ho modificato. E poi ho fatto qualche altro accorgimento, ho aperto un attimino per fare scendere a 100 kHz mi sembra, con questa modifica per aprirlo un pochettino e far uscire un attimino le ossi sino a 3000. E poi questo qui, che penso sia la cosa più importante, guarda. Guarda, adesso te lo fai così, è un primo passaggio, così è il primo passaggio praticamente, aspetta, così praticamente è l'altro passaggio, se invece ho tocco, guarda, Cos'è invece che quella cosuccia che lo fa proprio pompare un po' di più? Sì, pompa di più, infatti, si nota che si solleva anche di radio. Ho capito. Comunque riesci bene, è perfetto questa tournée qua. Ma se va così che va benissimo e vendibile subito 200 euro quello. Anche la 50 puoi vendere, perché è stato fare quella cifra lì. Non venderlo. No, perché se è bello, per noi contengo, lo volevo dare in via, però quello a 27 secondo me l'ideale è questo, anche perché sono, ho tirato un po' di vatro, è da 15 e 25 di picco, e poi soprattutto puoi fargli gli attacchi di garetto sotto, quello che giuro che a mosse che non arrivassero a 350, 400, 350 mi sembra, 350, comunque sino a 250 arriva perfetto senza saturare, buttandogli dentro 7-8 watt, dentro 9 watt, quindi dico magari ne stando di più e pure lui gira bene. Non mi ha usato il baracchino sui canali 10, ma l'ha pagato nella, la prossima volta che ti sento fuori buona te ne metto la porta. Ti volevo dire a me. Allora chi a me? Ha un difetto. Se sono che delle nuove cos'ha? Un microfono troppo amplificato. Tu c'ha un pezzo. Ma che sono che sono non sopporta molto i microfoni amplificati. No, non sopporta il microfono, anche questo non è il microfono amplificato. E tu stai usando il microfono amplificato, giusto? Sì, come quello tuo, MVP5 questo è. Infatti io siccome lo usavo sempre a manetta, la verità, lo mettevo 9, 10 massimo, anzi poi è sempre al massimo, e c'era bruciato un pezzo, l'ho portato a riparare per quello e mi ha detto chi l'ha riparato, che c'è diciamo questo difetto, questo pezzo fa due lavori contemporaneamente e avendo microfoni amplificatissimi ti li bruciava, infatti come è successo a me, adesso non mi ricordo come si chiama quel pezzo, mi c'è il doppio numero, sa? È il modulatore. Il modulatore, sì, mi ha bruciato quello per colpa del microfono, perché lo mettevo troppo amplificato. Ma poi se lo guardi è una stupidaggine, non ha un coso da niente, ha tre gambette, lo cambi e via, ma io non lo sapevo che era quello. Ma se tu quello cambi là, qui è stato, ci ho lavorato su quel modulatore, infatti, è per quello che ci ho detto, però voglio dire, lì ne puoi mettere ancora un altro, ancora più pomposo praticamente, quindi resiste di più, da di più, e riesce a farlo tirare ancora fuori, ma io qua mi sembra ciò per la modifica per mettere invece di farlo come l'ho fatto questo doppio modulatore che è semplice, si può fare proprio col finale, cioè non l'ho comprato, ma visto che la buona riuscita non vale la pena fare ancora a pomparla di più, se no poi alla fine rischi che la rovini. E quindi va bene, dai. Però volendo si può ancora lavorare nell'integratino quando ti si rompe, quello lo puoi mettere. Lo cambi per aumentare la modulazione, capito? Ecco, no, per come mi ha spiegato, che me l'ha riparato, dice che fa un doppio lavoro questo pezzo. E dunque, diciamo, l'unico difetto del Galaxy, tenendo il microfono originale non amplificato, ti dura una vita, invece usando microfoni amplificati, diciamo, ti dà questo difetto, tutto lì. Dice che fa un doppio lavoro questo pezzo, l'unico difetto che ha il Galaxy, diciamo, tra virgolette modificando, mettendo un microfono amplificato, tutto lì, ma e quando ce l'avevo 2 anni e poi mi si è bruciato dopo 2 anni, però ripeto, io lo mettevo sempre a manetta, adesso in questo momento io ce l'ho a 2,5, sto usando il MVP4 regolato a 2,5 come amplificazione, dal giorno non l'ho più toccato da così. Io capito, ma sarà, ma non ne sono convinto, io. Vabbè, comunque, già ci vuole poco a sostituire, capito? Vabbè, io al limite mi avvicino metto, se lo prendo col più luci. Vi saluto tutti, tanto qui ci siete solo tu e che c'era in questo canale, dai, che così saluto tutti e me ne vado. Buonanotte a Claudio che ho sentito entrato, buonanotte a tutti quanti. Ciao Fabri, ciao a tutti, no, dai, faccio provetti anch'io, buonanotte a tutti. E io buonanotte a tutti allora. Antone. Pupu. Leonci. Buonanotte a tutti allora, vai. non so. Ciao, comunque Antonio, mi sentite? Ciao. Chiuso anno. Io perlomeno preferisco rimanere nei quartecani, ogni tanto entro a salutare qualcuno, ma non mi trattengo mai sul 45. Non è una cosa che mi va bene. Continuate pure, non tanto sto chiudendo, avevo già chiuso la boccante di Antonio, sono passato sul 45 a rompere le palle Antonello. Dai, ci sentiamo, buonanotte a tutti, che è tardi, domani mi va a fare presto, vai, la tu ce ne sta tenendo bene. Qualche volta a me si dice la misura del vicino, almeno impara. Non mette l'Antonello? Quello è forse l'unico che siamo sempre rispettati, quindi non c'è problema. Anche lui ha diritto di spostarsi, io purtroppo con questi baracchini, se c'è Antonello sugli altri canali non posso usarli, è normale. Sono tutti baracchini vecchi, quindi prendono un sacco di colpi. Già cambio radio e non lo sento, non è un problema. Vabbè, stavo scherzando, bravo, dai. Cappa, io te l'avrei messo lo stesso. Sì, forse siamo io, Claudio. Da 90, forse 96, no, forse 99, adesso mi ricordo. Che siamo sempre sui stessi canali, la verità. Sia lui comunque, non ci diamo problemi di vicenda, anche perché un vicinato è sempre migliore, la verità si dica. Sono sempre andato d'accordo, quando si spostava lui mi spostava anch'io, si spostava lui, e quindi non avevamo avuto problemi, per dire, perlomeno. Poi quando c'è qualcuno che ci va dalle balle, facciamo un ribellino, io sono la pappagazzina per tutti. Va, io mi metto sotto il casello e parlo lo stesso. Guarda, fatta la cosa da Claudio quando è venuto qualcuno sotto casa mia, che mi ha reso la portante tanto tempo fa. Un certo passava con Claudio, ma ancora un altro passava. Non andavano tranquillamente tutti e due, anche perché io usavo la direttiva a due elementi, sembrava in cosa, la parola di un elicottero, e appunto per via carbonate parlavamo tranquillamente. Su figurati che usavo le 7250 l'eccezione, se ti mettevi sotto casa mia non ti sentivo più, quindi anche nel canale a fianco. Dai, sto scherzando, sto, dai, non fa niente, sto scherzando, dai. Sì, da poco io, no, non è così facile la vita, non ti preoccupare. Anche perché io mi sposto continuamente e rompo i coglioni. Ma potete dirmi che non è così, allora. Vabbè, dai. Mi sto scherzando adesso. Ehi, insomma, ha ragione Antonello, è molto difficile che passi qualcuno tra me e lui. È molto difficile che si metti sotto, è un casino. Può arrivare forte di segnale, ma la mia radio è omicidiale, poi se do più potenza è chiaro che aumenta ancora di più. Va bene ragazzi, dai, divertitevela, grazie delle due chiacchiere e cercate di stare sui canali bassi, così ci sentiamo un po' tutti. Va bene, un abbraccio a tutti, buonanotte, alle prossime trasmissioni. È arrivata mia figlia e vado a farmi due chiacchiere. Ciao a tutti, buonanotte, ciao Antonello, Antonio e chiunque fosse in ascolto, buonanotte. Ciao Clac, ci sentiamo buonanotte, alle prossime. Ciao Arto, ci andiamo a limitare la marina, quando diventiamo a lavorare. Fammi bene a tutti, buonanotte. Non ti preoccupare, adesso tu, io ti conosco, mi do niente, mi dimmi i telefoni, non ti preoccupare per niente, guarda che non mi conosciano i due rapporti, quindi non ti mettere problemi per quello, tranquillo. sono fatto, cioè se mi rispetta io che ho un rispetto, c'è un rispetto che guarda, cioè forse non ho, sono neanche con le persone che conosco molto bene, cioè per dire, dai, pure io già che vi conosco molto bene a voi, però per dire, come ti posso dire, delle persone più care, dai, per dire, cioè, hai capito, no, però se non mi rispetti sono capoli tuoi, allora lì divento un feroce, mi incavolo come una bestia. Beh, quella è una cosa logica, tanto che c'è per quel motivo lì, io rispetto a tutti, lo sai, sono amico di tutti e da Dio vado d'accordo con tutti. Se uno sbaglia con me, tanto quello che la faccio pagare. Se lo sbilizzi, non ce l'hai per nessuno. L'ho fatto con Alghero tanti anni fa, che mi metteva a pompare con 600 watt, e non lo facevo parlare l'uno con l'altro. Quindi ti posso dire ciò che posso fare. Adesso per il momento non sono a... Dicendo, tornando di prima, la verità non mi va più, perché è sbagliato, però se dovessero farmi tornare di prima, divento cattivo come prima, offensivo anche perché ero così, poi mi sono calmato, la verità è perché ormai ho 45 anni, non ne ho 16 o 20, quello che è, io li facevo rispettare, a me quando dicevano come mi erotti con Dio non ti faccio parlare, io li facevo aspettare tutti, perché l'ho fatto così. Adesso invece sono cambiato, ormai ho le pateccio e basta, è cambiato il carattere e penso solamente per stare tranquillo, capito? Però se uno mi fa tornare di prima, stai tranquillo che mi attento e non l'ho fatto schiattare a Sassari, te lo sto dicendo io, e non parlava neanche come dicevo di casa sua, vivo di tu. Perché ho speso tanti di quei soldi a Baratino, ma tanti di quei soldi che ci usciva un'automobile, purtroppo me li sono mangiati così, me li sono mangiati per parecchio e basta, adesso i tempi sono cambiati, ormai ho la fila infatta e quindi adesso solamente campami a me, non è che devo campare il baracchino, ma di tutto tipo preso la casa di mamma, non si era fatto niente per dire. Di tanto di solito mi ritrovo di spendevo così mi compravo da 600 watt mi compravo una mantova 5 una mantova 1 allora non c'erano problemi cioè se ritrovo per dire per riparazioni mi spendevo così vabbè c'è qui anche i prezzi allora c'era la lira insomma c'è l'euro quindi non può fare più niente però mi ha fatto per i distraggi, lo sto dicendo, massaggini, sono la 27, ti dicevo sempre, chi pigliava i colpi si ritiene, non mi interessava proprio niente, ogni giorno quando si lamentava, non mi sta sottrando, non mi interessa niente, i colpi sono come dei loro, diceva si ritiene, eppure portavo, ogni giorno colpi come dire uno, per tutti i giorni così ero. Se non diceva niente, staccava di mirare, perché l'ho fatto così. E basta. Adesso invece sono cambiato, ormai non me ne frega più niente, di comprare, di nulla. Esco con quello che c'ho e basta. E sono fatto così. Sono cambiato, sono invecchiato, magari sono rincoglionito, rimabbito, chi so chi è, però comunque sono cambiato parecchio. Prima invece no. Come da ragazzini, diciamo, che fanno per potenti e adesso... Una volta che poi sono sposate, che hanno figli, cosa non c'è, si calmano. Dimmi. Dimmi. Aspetta. Io già lo sai che la verità non abbiamo mai preso perché non c'è neanche il tanto di fiduciare. Perché... Cosa vuoi? Oh mamma mia. Perché già lo sai come che non abbiamo mai avuto niente, così che... cioè, come ti posso dire? Non ci sono i motivi perché... c'è una persona che parli tranquilla, ti fai fatto tu e ti fai e basta, no? Non rompere a parlare a nessuno. Invece c'è gente che purtroppo è fastidiosa perché ha la lingua troppo lunga. Oh, Antonè, come va questo microfono? Perfetto, normale comunque sembra. Microfono normale? Che schifo, grazie. Beh, non serve a niente, no? C'ha appena amplificato, ma non molto, la verità. Non serve a niente, no? Saletta con Ruiz. Guarda a vedere, anche se lo metto a manetta così, no, non serve a niente, no? Questo si amplifica un po', ma non molto, però. Non serve. Beh, forse è meglio il Turner. Aspetti, provo il Turner a vedere. Aspetta un attimo, un secondo, poi chiudo. Stavo facendo una prova con lui, a vedere. Die Ansätze, sagt er, als sie zurückkommt. Ich muss ihr ein bisschen Pommel machen. Ja, ich hab mich gerade einen Moment. Oh ja, quando ci troviamo, ce la prendiamo, va? E per come ci sono, non ci sono problemi. Quando vuoi, ce la beviamo, non c'è problema. Prova un po' il microfono qua. Ecco qua, questo è il Turner più treco, Luis, com'è? Non mi piace. Manca a me, manca il gadda. Cazzo, non c'è un microfono che va bene in questo cazzo di baracchino, per carità. Ascolta, metti il microfono qua, se ce l'hai. Già ce l'ho, ma non mi piace. Non so, volevo tenere eccolo qua. Volevo mettere un pochino più alto, così, ma non mi piace. Non mi piace, bruttissimo. Sto ascoltando, molto, molto brutto. Ascolta, prova di rimettere 100 un attimino. Non c'ho batteria, Antonio. Devo comprare la carta, sono uscito oggi e non l'ho comprata. Non c'ho batteria da 9 volts, capito? Prima domanda? L'amplificazione c'è, non rimane un bel cuppa, capito? Non c'è quella timbrica famosa. Non mi piace la verità, è un pescato un po' strano. Un po' strano, no? Aspetta l'ultimo grido, vediamo l'SBS, va bene con Ruiz. Qui c'è l'SBS, aspetta. C'era un microfono che andava bene con l'apparecchio. A chi ha sentito il quadro di saluti mio compadre di cosa fa? È un'ora che ce ne prende, va? Sì, ma non è normale quello. È spostato di 5-6 schio, figurati tu. Oscar India, what is your personal name? Vabbè, ne ho tanti microfoni, ma non ne ho provato neanche uno con Ruiz. passate, se scappa, è vero che vi punta? Sì, sono 5 watt. 5 watt, aspetta che attacco. Whiskey on top 2. Eccolo qua, così è attaccato. Così è attaccato il tuo 4 e adesso. Adesso è in questo smitter, sì. Sì, quasi, ci manca ancora un pochettino, vedete quando scala, dai. Ehi, è positivo. Però mi sto ascoltando, non salto la modulazione. Rimane stabile la modulazione, ci picchia. Bisogna eliminare però a me questo rondio che c'è. Bisogna eliminare questo ronzio della ventola. È troppo alta. Vabbè, bisogna metterlo così, però non si sente più un cazzo. Allora niente, va bene, dai. Allora già va bene, dai. Allora questo microfono lascia a me. Aspetta che sta con l'amplificatore. Questo mi fa bene, va bene, perfetto. Quello Gigio, metterlo sotto per fatto devi metterlo, di fare una spazzone, lo metti in terra e poi ti sali il capito sopra, perché non è possibile, dopo uscire ti poti passare, sembra che c'è un... sei dentro un aereo, figurati. Che i microfoni da tavola così, è un casino. Adesso l'ho spento. No, ma gliela elimino quella ventola. Oh, adesso questi giorni sono impegnato, non ho voglia e non me ne fotte nulla. Però gliela elimino quella linea, ne metto una 12 volts che è più silenziosa. Pure lo vediamo con Fabrizio, vediamo un pochino se si può fare qualche modifica, perché così non mi piace. C'è troppo casino, poi te ne accorgi che c'è la ventola attaccata, capito? E allora niente. Ehi, un'ora sei fruscendi, e fruscendo le balle. Che cazzo di cuffie, va bene dai. Ok, la prova l'abbiamo fatta, era questa la prova, la prova che volevo fare con quello di Alghero, ma non sono riuscito a farla, capito? Perché stavo prendendo colpi. Il noise più selettivo, ho provato a spostarmi e ti sento molto meno rispetto agli altri, però devo tenere questo microfono perché gli altri non vanno bene, sia il più 2, il saletta, il più 3 attaccato alla KV23, le connessioni sono diverse, vabbè. Ok, dai, buonanotte a tutti, grazie dei controlli, adesso li abbiamo fatti, con Antonello qua su 10 già siamo riusciti a fare dei controlli. Ok, ciao Antonello di nuovo, buonanotte a tutti, grazie delle prove, ciao! Ciao, grazie, andiamo alle prossime. Ciao, ciao Antonello, dai, vengo anch'io, ciao a tutti. Non andiamo d'accordo, ma ci stiamo al limite domani, se tutto quanto va bene. State vedendo, buonanotte a tutti, io faccio così anche io, se no non è che mi sono fatto con gli incubi. Allora, domani, state ben bene a tutti, ciao. Ciao, ciao, Tommy, grazie, ciao. Di niente, lo sai. Da dove non ne ho io. Quando vuoi, per fare favorire qualcuno non c'è problema, me li fai tu al meglio, faccio a te. Grazie a te, a domani, ciao. Ciao.